Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Le tecnologie dell'Internet of Things stanno cambiando profondamente l'agricoltura. Sentiamo parlare per esempio molto spesso di agricoltura di precisione, cioè un'agricoltura che è in grado di somministrare quasi metro quadro per metro quadro quello che serve alle piante, acqua, concimi, agrofarmaci e quant'altro. E forse questa tecnologia scardinerà anche alcune, diciamo così, brutte abitudini che sono venute fuori con l'agricoltura industriale. Ne parliamo con Carlo Ratti, che è direttore del Sensible City Lab del Massachusetts Institute of Technology a Boston, e insomma spesso nostro ospite per raccontarci che cosa fanno da quelle parti. Buonasera Carlo Ratti. Buonasera. Allora, partiamo da quello che è stato il concept del padiglione dell'Expo dell'Olanda, il New Holland Agriculture Pavilion, quindi nel 2015, e il concept, diciamo, che rappresentava appunto questo padiglione erano dei trattori che stavano arando un campo, facendo però dei disegni, creando delle tessiture, delle immagini. È un gioco, ma dietro c'è un pensiero preciso. Sì, e questo era il concept della New Holland. New Holland insieme è uno dei primi produttori al mondo di macchine agricole. E proprio nel padiglione il concept che avevamo usato, con cui abbiamo vinto il concorso della New Holland per il padiglione di Expo, si basava su questi trattori sul tetto che si spostavano da soli, un po' con le macchine senza guidatore, e spostandosi da soli potevano poi andare a mettere semi diversi in punti diversi e quindi quasi a stampare sul tetto di questo padiglione. Infatti si parla proprio di agricultural printing, no? Che però appunto non è un sollazzo. No, infatti per l'aspetto molto importante per noi era un aspetto diverso, un aspetto molto serio, il fatto che nell'agricoltura del secolo passato l'unico modo in cui potevamo produrre era attraverso la monocultura, quindi continuando a mettere a piantare le stesse cose over and over again, su tutto grandissime distese. Ma questo non è quello che fa la natura. La natura di solito lavora in modo diverso, lavora creando degli ecosistemi molto più complessi e che proprio per questo hanno anche maggior resistenza. E allora l'idea di un futuro in cui, ecco, se noi avessimo i sistemi robotizzati, i sistemi di trattori che si guidano da soli, eccetera, e potessimo andare quasi a seminare in modo molto più preciso, una semina di precisione, possiamo tornare non a sistema di coltivazione del XX secolo, del secolo passato, ma nuovi sistemi molto più simili a quello che farebbe appunto la natura. Ecco, diciamo, non so se sei d'accordo su questa riflessione, ma diciamo che l'industrializzazione, quando è arrivata in agricoltura con la meccanizzazione agricola, ha portato, perché questa è una cosa che piace molto all'industria del XX secolo, la standardizzazione, cioè l'industria vive di standardizzazione, di ripetere massicciamente una stessa operazione. Quindi era incompatibile questo con la complicazione, per esempio, di seminare appezzamenti più piccoli oppure di seminare addirittura due specie alla volta, che forse invece erano pratiche che una volta venivano utilizzate dagli agricoltori prima della meccanizzazione agricola. Assolutamente, l'industria del secolo passato era l'industria di massa. La storia interessante di questa nuova industria che abbiamo oggi, che è quella che viene chiamata l'industria 4.0, comunque l'industria che ha alla sua base l'internet delle cose, l'internet of things, e che può fare quello che si chiama la customizzazione di massa. Quindi non deve necessariamente continuare a ripetere le stesse cose, ma può in realtà lavorare in modo molto più preciso e fare cose diverse da un punto all'altro. Questo vale sia per l'industria in generale, ma vale anche per l'agricoltura industrializzata. Avete poi sviluppato ulteriormente questo concetto? Quali sono stati i passaggi successivi? Ma per noi quel progetto era un progetto un po' sperimentale, un progetto per vedere le potenzialità di come potrebbe essere l'agricoltura domani, ma io credo che oggi ci siano moltissime ricerche che vanno in questo senso. Pensiamo anche a tutte le ricerche che fanno società tipo Boston Robotics, che oggi fa parte dell'universo Google, in cui proprio questi sistemi robotizzati diventano sistemi molto simili quasi a quello che poteva essere un bue di una volta. Insomma, se uno guarda questi nuovi sistemi robotizzati, assomigliano ai sistemi con cui si lavorava la terra centinaia di anni fa, con cui l'uomo ha lavorato la terra per migliaia di anni, e quindi pensare a sistemi robotizzati di nuovo tipo che ci permettono appunto quasi di pensare al domani, ma tornando ai sistemi di ieri. Alle buone abitudini, diciamo, perché il contadino una volta sapeva perfettamente che doveva seminare lì una roba, lì un'altra, a pochi metri di distanza, sapeva che il terreno era diverso. Noi stiamo recuperando questi saperi, ma li stiamo, diciamo, poi applicando ai metodi industriali. Ecco, parlavi di questi robot, mi pare che uno dei problemi principali sia proprio adeguare i macchinari agricoli, perché non basta seminare con precisione, ma bisogna poi avere, per esempio, qualcosa di diverso da una mietitrebbia che è abituata a tirare su una sola specie alla volta, addirittura quella che tira sul grano non è in grado di raccogliere il mais. Insomma, c'è una forte specializzazione da questo punto di vista. Bisogna tornare indietro? In qualche modo sì, è un po' forse l'agricoltura che abbiamo fatto per migliaia e migliaia di anni, un'agricoltura molto più ricca, non basata sulla grandissima estensione, la grande monocultura del XX secolo, e che oggi può diventare di nuovo d'attualità grazie ai nuovi sistemi robotizzati sia per lavorare la terra, ma anche poi per raccogliere, per utilizzare intelligenza artificiale per fare un po' quello che abbiamo fatto per tantissimi anni, certo, ma che non era possibile nel XX secolo. Va bene, grazie ancora Carlo Ratti. Grazie mille, a presto. È tutto, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani, vi lascio a Effetto Notte.